Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora insieme questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ed è di nuovo con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oh, quest'oggi parliamo di energia come corrente elettrica, nel senso non quella che dovremmo avere ogni mattina quando ci alziamo per andare a lavorare. Parliamo di corrente elettrica, parliamo di tariffe elettriche, perché ci sono dei cambiamenti grossi in futuro. Sì, come ha detto Francesco, qua si tratta di un documento che è stato emanato dall'Autorità per l'Energia, che è messo in consultazione, che ci auguriamo dovrebbe rivoluzionare un po' le bollette da partire da gennaio 2018. Ed è un documento che sostanzialmente vuole mettere mano a una struttura tariffaria ormai definita obsoleta, che era stata introdotta circa 40 anni fa e che può per contrastare anche quel periodo storico in cui c'era stato uno shock petrolifero degli anni 70. Ed è un'iniziativa, un'idea in questo momento che prevederebbe per quella data lì l'eliminazione di quelli che sono un po' i scaglioni che oggi sono presenti sulla bolletta, che vanno a penalizzare chi consuma di più, e questo potrebbe essere un aiuto un po' per le famiglie numerose, ma certamente andrà ad incidere maggiormente per magari chi è single e consumava poco e poteva beneficiare di quella fascia certamente più conveniente rispetto a quella che potrebbe essere un futuro. Ecco, in un certo senso, se paragoniamo, che ne so, il consumo della corrente elettrica come quello del telefono, oggi come oggi, più telefoni meno paghi, no? Cioè, nel senso, più decidi di spendere per telefonare, puoi telefonare ad oltranza spendendo limitatamente rispetto a uno che telefona poco, che ha quindi costi più alti. Completamente differente per l'energia elettrica, quindi si va su un cambio d'obiettivo. Beh, sì, perché se noi pensiamo, da quello che è un po' una prima analisi, che poi sicuramente andrà modificata, perché noi ormai per esperienza sappiamo che quando c'è la possibilità di fare qualcosa di intelligente e risparmiare, subito veniamo smentiti, perché oggi normalmente è sempre quello di voler cercare di inasprire i prelievi fiscali. Però ad oggi, se questo è un ragionamento, sembrerebbe che per esempio chi ha un consumo medio all'anno di 2700 kW, e parliamo di un consumo medio di un residente che ha una potenza impegnata di 3 kW, sostanzialmente si manterrebbe intorno ai 443 euro all'anno rispetto ai 438 di adesso. Però ci sarebbe veramente un maggior beneficio per chi magari ha una potenza impegnata di 6 kW, che quindi non ha nessun scaglione agevolato, un consumo fino a 6.000 kW addirittura all'anno, e addirittura sembrerebbe che il risparmio potrebbe arrivare ad oltre 600 euro all'anno, quindi certamente un quattro soldini che potrebbe aiutare in un momento di difficoltà. Però per conto i single che magari ha una potenza di 1.500 kW all'anno di consumo, calcolato su un'utenza di 3 kW, pagherebbe circa 74 euro in più rispetto ad adesso. Quindi ecco, a seconda di come si vuole vedere le cose, sicuramente il dritto è il rovescio della medaglia. È un po' una cosa particolare a cui non siamo abituati, ma d'altronde è come quando vai al supermercato e prendi una confezione singola di petto di pollo che costa, che ne so, 10 euro al chilo, e se la compri da 3 kg la paghi quasi la metà, insomma, quindi più consumi meno paghi, e in questo senso farà felici determinate categorie di persone. Questa cosa qui dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2018? Sì, questa è un'idea che se va avanti, che adesso, come ho detto, è in fase di consultazione, dovrebbe andare a regime nel 2018, e certamente il tuo ragionamento che hai fatto è pienamente condivisibile, è un incentivo, se vogliamo anche interpretarlo in questo senso, però dobbiamo anche ricordarci che siamo in una fase in cui magari bisogna pensare anche a salvaguardare l'ambiente o soprattutto promuovere le energie rinnovabili, quindi sono cose che secondo me, fin tanto che non abbiamo un po' il pacchetto definitivo, tralascerei un po' quelli che sono le vari commenti o le varie anime che potrebbero coinvolgere in questa rivoluzione. Certamente però il principio di agevolare le famiglie numerose noi lo condividiamo, perché oggi in Italia sicuramente mancano delle iniziative efficaci per aiutare chi magari famiglie numerose da 5-4 persone che oggi sono veramente in condizioni più faticose in questa crisi generale. Però ci auguriamo che questo aiuto non possa andare sulla pelle di chi magari vive da solo e fa più difficoltà magari anche a sbarcare di un ago. Quindi ecco un ragionamento che per questo direi di approfondire sicuramente più avanti, ma che certamente è molto interessante oggi che se ne parli, perché è una proposta che noi appoggiamo e che ci auguriamo che vada avanti. Sì, abbiamo un paio d'anni insomma abbondanti per capire che cosa succederà. Intanto abbiamo, come dire, lanciato il sasso, aspettiamo di vedere che cosa ci porterà il futuro. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, ricordo associazionedifesaconsumatori.it il vostro sito per accedere poi anche a tutte le vostre iniziative, ce ne sono molte, quindi vi invito a visitare il sito. Grazie al presidente, l'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.